Then I went down into the basement where my friend, the maniac, busies himself with his electronic graffiti. Finally, his language touches me because he talks to that part of us which insists on drawing profiles on prison walls. In that moment, poetry will be made by everyone, and there will be emus in the zone. Inizia ora Music for You. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sherwood 97800, Radio Sandonà 102.2, Music for Youth, seconda settimana di programmazione per il nuovo anno scolastico 2010-2011. Buonasera Alvise Favotto. Buonasera Daniele Terzariole, è bello averti ancora qui con noi. Un platano non ha il tuo nome. Ed è un gran peccato, perché potrebbe essere addobbato con mesi di anticipo prima di Natale. Esatto, mettiamoci una punta. Una bella targhetta a nome Daniele Terzariole. Chi sono gli ospiti di questa sera? E ho già toppato, perché l'ospite è solo uno, ma importante. Uno e trino, direi io. Marco. Marco, buonasera. Il pluralismo che mi avete assegnato. Eh sì, perché come Marco è bipartisan, lo sanno esatto. Tutti. Allora, chi è Marco? Marco si è manifestato in questi studi, è sceso. Sì, esatto. Si è a noi palesato. Salito più che altro. È salito, al secondo piano. Sì. Esatto. Un bel Fosbury al contrario. Infatti, è un passaggio intermedio prima di salire al cielo. Comunque, dopo questo inizio biblico, Marco è uno dei soci fondatori del Discovery Studio. Esatto, esatto. Nonché organizzatore di concerti, nonché nient'altro. Pagliaccio come noi? No. Sì, di più, ben di più. Probabilmente ha più decenza. Sì, sì, sì, assolutamente. Era solo una domanda. Si merita ancora per poco. Per metterlo in difficoltà. Perché già essere qua, scusa, cioè, pagliaccio come noi, già essere qua è ovvio. Cioè. Infatti, ti sei abbassato, guarda, secondo me. Sto guarda, strisciando. A dei livelli che nessuno potrebbe toccare. No, vabbè, Marco adesso ci racconta come nasce questa esperienza di Discovery Studio. Come nasce? Nasce diversi anni fa da un'idea di me e Sandro, di appunto di cercare di unire più realtà o più lati della musica, quindi dalle sale prova allo studio alla realizzazione di corsi e di appunto di eventi, in ultima come cosa si è sviluppata un po' dopo, però insomma già da diversi anni che facciamo, dal club ai festival a vari eventi, a concorsi se quando è capitato, e tutto qua. E mentre noi invece organizziamo solo pesche di beneficenza dove... E male però, esatto. Sì, molto male, sì, sì, tutti vincono toccate. Mollette, tipo, esatto, sì. Mollette o scolapasta, solo mollette, non capiamo come mai. Scolapasta senza i buchi, tra l'altro, esatto, vorremmo sì, specificare. E le chiamano pentole, era plastica. Era il primo premio dell'ultima pesca di beneficenza, non chiamateci più perché esatto. Non abbiamo più voglia di fare figure da chiodi, magari ne organizza una migliore Marco, che già lo vedo più terzo conduttore che ospite sì, in sì, studio. Sì. Anche perché dal fuori onda capisco che lui è in grado di correggerci, anzi di fare molto meglio di noi. Bene, se vuoi raccattare i bastoni sono a lato dello studio. Vabbè, per sì. Bastonarci quando sì, vuoi. Sì, certamente. Tornando a quella che è la tua attività principale, ci facevi riferimento a dei corsi. Di che corsi stiamo parlando? Beh, abbiamo cominciato con corsi di Ableton Live. Logic, Cubase, che insomma chi sa qualcosa di musica o cioè chi scrive musica generalmente comunque sono software che conosce, quindi software per creare musica. Abbiamo ospitato diverse volte appunto degli insegnanti che appunto per approfondire tecniche dal basso, batteria, chitarra e via dicendo, e negli ultimi anni anche fotografia, per dire. E fotografia solo digitale oppure? Devo dire purtroppo solo digitale, oppure io penso stessa, oppure anche manuale, come analogica, forse. Analogica, sì. Manuale comunque. Manuale nel senso di libretto, e quindi Favotto, l'unico manuale che puoi avere te è quello per vangare la terra. Ah, ok. Leggetelo, no, è solo un foglietto. Esatto. Sì. Giù. Non sono neanche più pagine, perché so che ogni volta sono che ti spiego che i giornali vanno sfogliati a destra verso sinistra. Esatto, sì. È stato non fatto è un manga. Solo un foglietto. Vai sì. Proprio sciolto. E quindi? Sì, al momento purtroppo no, nel senso che è una passione, cioè fotografia tradizionale, analogica, è una mia passione in primis, però organizzare corsi è tutta un'altra cosa. Insomma, non penso che, da quello che sento in giro, ci sarebbero molti che avrebbero voglia di chiudersi in una camera oscura. E tu, conduttore, no. Sì, anche se continui a fare domande specifiche, sappi che non ti farà lo sconto. No, ma io no, alla fine io appunto di manuale so solo la zappa, perché per cui poi su Ableton il resto noi non sappiamo fare assolutamente niente, perché tanto qua se anche programmiamo in DOS, quindi in DOS nel senso di in due. Va bene, possiamo cominciare ad essere bastonati, ma tutta la Banfi in DOS, cioè proprio roba. Bene, a questo punto io direi che presentiamo un disco. Infatti dicevo, possiamo cominciare ad essere bastonati. Cade Mo su questi studi. Bene. Cade Moby di povero testa Moby, e perde Moby tutti i capelli. Allora, infatti, cari telespettatori, radioascoltatori, voi dovreste sapere che c'è questo momento in cui stiamo parlando di chi è Moby nel fuori onda. Dalle testoline di Terzariole e Favotto escono che Moby è pelato, ha un tatuaggio con un codice a barre alla base del collo, è vegetariano e ha una catena di ristoranti vegetariani. Cesare Ragazzi di conseguenza lo odia, non per i ristoranti vegetariani, perché è un emblema di un suo fallimento. Esatto. A questo punto invece Marco sa il nome del primo singolo e del primo album e ora ce li dice. Aspetta che allora, ci sta pensando. Aspetta, allora, vuoi prendere del il tempo? Il primo singolo non sono sicuro se è il primo, comunque è un singolo tra i primi singoli, era Into the Blue, se non sbaglio 93/94. Dentro il Into the Blue. E il primo disco è, se non sbaglio, 95 Animal Rights, 95-96, però non lo trovo a casa da un po', quindi potrei sbagliare. Qui i diritti che ci riguardano più da vicino. Molti credono sia Play. Del 99. 98-99. 98-99, dal quale ne abbiamo estratto proprio la traccia che andremo ad ascoltare tra poco. Bravissimi. Marco alza la mano. Bravissimi. Vedo che apprezza. Non so quale sia, però Find My Baby. Va molto bene. Trova il mio bambino. Esatto. Chiedeva Michael Jackson. Esatto. dai, una battuta. No, infatti lì era Find My Babies, perché non basta mai. È pessimo, sai? Abbiamo cominciato malissimo e siamo solo all'ottavo minuto di programmazione. Questo programma sta raggiungendo dei minimi storici. Delle vette al contrario. Esatto. La fossa delle Marianne, della radiofonia praticamente. Quindi, senza perderci in inutili divagazioni, caro il mio Terzariolo, andiamo a sentire Moby. Questa è Find My Baby e questi sono i 97.8 di Radio Sherwood, dei 102.2 di Radio San Donato. RSD 102.2 Radio Share 97 800. Bentornati in Music for Youth, estratto da Play. Questo era Moby, Find My Baby, come diceva Michael Jackson. Bentornati in studio, come si diceva. Tocca a te, è la domanda per Marco. Benissimo, sì. Le fai domande? Sì. Cioè, proprio il peggiore. Io sono qua che tocco male il mixer e poco altro. Si avvolge sinuoso intorno a me. Cade una nebbiolina britannica in questo studio. Comunque, no, ci stavi dicendo, abbiamo parlato di Discovery Studio, poi tu millantavi organizzazione concerti e io so che qui c'è il mio piccolo, qui come c'è l'esperienza, il microdotato, esatto, nel mio piccolo o qualcosa posso dire. Beh, vabbè, l'anima del rock and rock qui davanti. No, calma, la mia rock and rock, io sono l'anima di, no, sono una parte dell'anima del rock and rock, che è appunto, sono fondamentalmente diverse persone, ormai amici, anche se abbiamo cominciato con un rapporto di collaborazione, adesso sono diventati degli amici, che saluto se sono all'ascolto, Alberto, Mattia, Matteo, Eleonora, Valentina, e adesso non mi viene in mente altri nomi. Comunque sono parecchi ragazzi che si sbattono ogni anno a lavorare circa 11 mesi per fare 10 giorni in cui gli altri si divertono e loro continuano a lavorare per, sì, dopo aver lavorato 11 mesi continuano a lavorare anche quei 10 giorni là. È una bella esperienza vedere Marco nei giorni del rock and roll. Esatto, io ho partecipato appunto dalla terza quarta, adesso non mi ricordo bene che edizione. Ho partecipato in diverse modalità, fino a che negli ultimi 2 anni appunto ho un'area dedicata, denominata Second Stage, che ogni anno deve chiamarsi in maniera diversa, ma non troviamo mai un nome adatto, quindi vediamo se qualcuno ha qualche idea, ce la dica pure. Ma guarda, dubito che da questi metri quadri venga fuori qualcosa di buono. Da queste due teste sicuramente no. Ma dicevo agli ascoltatori, cioè chiaramente non avrei mai fatto affidamento. Favotto ti potrebbe suggerire l'angolo della mortazza, per esempio. Sì. Esatto, cioè potrebbe il letto di crudo. Già, pensavo anche peggio, quindi andrebbe bene già così. E, insomma, sono entrato in questa avventura, loro mi hanno coinvolto sempre di più e faccio con grande onore parte di questa bellissima organizzazione che ogni anno appunto regala 10 giorni di divertimento agli altri, un tot di lavoro a noi. Infatti, come ha detto lui, i giorni Rock and Doc sono sempre giorni abbastanza particolari che diciamo ti... sei qua, però ti sembra tipo di partire per un mondo particolare, dopo torni, visto che hai orari completamente sballati, lavori sotto il sole generalmente, perché se piove alla sera, chiaramente non durante il giorno, quando stai lavorando giustamente il sole devi prendertelo, perché sennò... Potresti lavorare nell'ombra invece, al posto, sì, che il sole, e insieme a DJ Shadow, per l'appunto. Ma no, che... Cioè, mi guardavi con aria interrogativa. Volevo fare un piccolo inciso, se posso. Sì, prego. Il second stage di quest'anno vedeva i Delude by Lesbians. I Delude by Lesbians, quei bei ragazzi che salutiamo. Beh, dai, Francesco. Che sono ragazzi stati carinissimi, carinissimi ragazzi. Sì, infatti mi dicevano stati. Anzi, ho ascoltato la puntata. Non è vero, non ho ascoltato la puntata dove. Beh, non importa. Tranquillo. Guarda, ma non per i Delude, per voi. Non ci registriamo, non ci ricordiamo neanche averla registrata. Per cui figurati. Meglio non sia mai capitato. Siamo ridotti a la memoria di un pesce rosso. Esatto. Noi facciamo un giro della bulla d'acqua e poi ci dimentichiamo. Adesso si ricomincia con Daniele Terzaglioli, Alvise Favotto, Music for Youth, eccetera eccetera. DJ Shadow potrebbe essere adatto al second stage sicuramente, sì, per le sonorità, no per la capienza di pubblico che richiederebbe, non per il cachet che richiede, soprattutto per il cachet che non so quanti soldi potrebbe portarvi via, presumo, ma parecchi, penso un 10.000 euro potrebbe comodamente chiedervi, come anticipo potrebbe andare bene. Dopo magari come anticipo in tramezzini, sì, perché lui ne va ghiotto di tramezzini, sì. DJ Shadow, no, non è vero, niente, tonno e olive, vero? Sì, sì. La mattina col quarto di rosso. DJ Shadow è stato già nostro ospite. Sì, sì, anche lui proprio fisicamente. No, esatto, cioè, ci ha occupato lo studio. Io sostituisco DJ Shadow, che generalmente che questa sera è alla taverna. Sì, è al taverna a proseguire la sua tour all'Amami. Esatto. E poi per finire al nodo. Amami al nodo. Al nodo, un groppo intorno al collo, praticamente. Sì, e l'hip hop strumentale di cui questo si fa portatore, noi ce lo... Sì, ma che pezzo è? Daniele, tu adesso allora, che puoi cazzare un pezzo adesso, così. Allora, adesso, c'è una non genesi. Non introduci l'artista. Qui è partita una riunione dei due soci fondatori di Music for Youth, nonché unici membri di questo clan ristretto. Prego, Favotto, dici allora, perché abbiamo scelto DJ Shadow e in particolare questa nuova traccia che si chiama I've Been Trying. Allora, DJ Shadow si rende protagonista di due iniziative. Uno, la emissione per il solo mercato britannico di due singoli, tra cui questo I've Been Trying, che noi abbiamo trovato in iTunes, tra l'altro, iTunes, e invece saranno venduti solo in Gran Bretagna. Contemporaneamente il nostro si sta sbizzarrendo in un tour nell'est Europa, dove ha deciso di farsi promozione in maniera anomala, ossia questo entra in dei negozi random e lascia giù un suo disco inedito nella categoria DJ Shadow nelle risme di CD. A questo punto tu puoi andare lì, trovare l'inedito e comprarlo. Se sei nato a Budapest, a Bucarest, a Sofia, Tbilisi, Timisoara, ti chiedono la carta d'identità, Odessa, compri o no, tu li lascia là? Tu li lascia là. Ah, ok, lui no, perché se sei nato, cioè, come dire, vai a comprarlo, no, devi essere nato in una di queste città. Vabbè, adesso non tiriamo su una pratica come quelle di Forum, questa cosa. Vabbè, ma, cioè, no, no, infatti, essere, cioè, se non puoi essere fru fru, è vero, hai ragione. No, il ragazzo qui è puntiglioso, lacunoso, su alcune cose. Non può essere lacunoso. Non può essermi così lacunoso su un personaggio. Per cui Favotto, come dicono sulle conseguenze dell'amore, placati. Sì. Quindi, come diceva Corrado, fuori i secondi, e questo è. Poi vi riconoscete voi il programma. I've Been Trying. La mettiamo, cosa dici? Certo, è già partita. Benissimo. Hi, kitten. This one's for you. I've been trying to get you to love me. I've been trying to get you to care. Put forth a lot of effort, but I just don't seem to get nowhere. I've been trying to get you to love me. I've been trying to get you to care. Put forth a lot of effort, but I just don't seem to get nowhere. Thank you. a worldwide exclusive, e dovevo pronunciarlo bene, Favotto correggimi tu, worldwide che parli exclusive. Molto bene, questo era DJ Shadow con I've Been Trying, uno dei nuovi estratti dal singolo A-Side appena prodotto da DJ Shadow, che potete acquistare su iTunes UK. Esatto, perché è stato programmato appunto solo per il mercato britannico. La gente è fortunata più di noi. Sì, questo non capiamo questo, diciamo, questa discriminazione nei nostri confronti, però molto probabilmente si rende conto di avere a che fare con gente di un certo livello, in questo caso noi due. Bene, ringraziamo DJ Shadow ed è il momento che fa paura a tutti, io lo ripeto ogni volta perché così la gente fa a tempo a sintonizzarsi da un'altra parte. Favotto, tu sei pronto? L'ora d'aria è qui per te, dammi tutti i contatti che vuoi. Allora, ascoltatore, ti è mai capitata l'esperienza di portare fuori una ragazza al tuo primo appuntamento, entrare in un locale e voler essere salutato da tutti per far capire alla fanciulla quanto tu sia conosciuto e noto nel paese? Chiama allo 0421 56 0993 o manda un fax allo 0421 56 0994 e io e Terzariol ci sederemo al tavolo avanti a sinistra, quello vicino al bagno per capirsi, e appena tu entri noi diremo ciao radioascoltatore, in modo che tu possa vantarti con la ragazza dicendo ah, quelli sono miei amici. Andava bene, visto? Cioè, finetta. Mi sono accorto che tu non hai specificato che noi siamo usi e soliti ordinare bovoletti. Esatto, in qualsiasi posto. Noi dove siamo quelli con il petto villoso e la camicia bianca, anche quella vaga catenella d'oro che si intravede. Esatto, e forse è un look che potremmo suggerire White Rabbits disco proposta, solita definizione molto White Rabbits white shirt, ecco, che camicia bianca, solita definizione molto anni 80, come sì, abbiamo detto la scorsa volta, che ascolteremo tra poco, non prima di aver ricordato i nostri indirizzi dei rispettivi blog, perché ce ne abbiamo due. Sì, d'improvviso l'incoscienza, abbiamo un nuovo blog. Avevamo musicforyouth.wordpress.com, ora per la gioia di Daniele, youth per i non anglofoni è YOUTH, molto bene. Ora abbiamo anche musicforyouth.tumblr.com. è stata lanciata una competition per cercare di capire come si pronuncia questo Tumblr o Tumblr. Il premio è venire a darci delle bastonate in aggiunta al nostro ospite Marco Discovery di questa sera. Sì, che e qui, oppure potete sedervi con noi al tavolo e salutare l'ascoltatore appena entra al bar con la fiamma della serata. In sottofondo magari ci sono i White Rabbits, che qualcuno li avrà scelti. White Rabbits, combo statunitense, originari della Columbia, se non sbaglio, al loro secondo lavoro sulla lunga distanza. Bravo, bravo. Il primo passa praticamente... Vedo che hai studiato. Passa praticamente inosservato nel 2007. Ora si ripropongono l'anno scorso con questo It's Frightening. Eh sì. È pauroso. Un disco... E si parlava di me. Un disco che è passato inosservato, come diceva Andrea Bocelli, è appena uscito da poco il loro ultimo capitolo sotto la TBD Records. Noi sì, tra poco andremo ad ascoltarci il loro pezzo più rappresentativo di quest'album, che è Percussion Gun. Same out. Percussion Gun dei White Rabbits su RSD 102.2 Radio Share 97.800. Bentornati con Alvise e Daniele, questa è Music for Youth, la nostra ora settimanale di programmazione. Il martedì alle ore 17.30 su Sherwood, il mercoledì alle 22 su Radio Sandonai in replica, il lunedì successivo alle ore 21. Si diceva Percussion Gun dei White Rabbits. Prego, Favotto. Scusateci per essere così spesso in onda, noi non vorremmo, però purtroppo. Ci hanno fornito addirittura una replica, purtroppo c'è gente che vuole riempire i buchi dell'Emmental e noi forniamo gentilmente le nostre voci, cosa ti devo dire? Voci atroci come il famoso gruppo. Facciamo parlare qualcuno di più interessante, sì. Oltre alle nostre persone, una dimensione, già, per la felicità qua, di Marcuse. Torniamo a, ci dimentichiamo questa pseudo citazione colta di Terzariola e torniamo a parlare con Marco. Allora, noi abbiamo parlato dell'evento Rock and Doc, che è questo festival che coinvolge tutto il sandonatese ogni estate. No, come ti ho zittito? Sì. No. E adesso? Dai, devi fare i conti su quanto... Me lo dico dopo. Tranquillo, ci pensi. Perché intanto noi ti facciamo un'altra domanda. Poi? E la colleghiamo al... Sei anni. Adesso 6 anni. Più recentemente invece inizia a collaborare anche con il New Age locale, sì, in quel della provincia di Treviso, più specificamente a Roncade, e porti gruppi. Chi non lo conosce? Sì, con New Age ho fatto qualche data e collaborato con altre organizzazioni che organizzano là in maniera molto molto proficua, anche insomma efficace e devo dire che insomma è una gran bella realtà con cui lavorare, loro cose ne fanno e anche belle, quindi sono gran professionisti, è un bel locale, insomma. La domanda è una gran soddisfazione lavorare con loro. Prendeva il piglio da dove? Dal fatto che adesso presentiamo i Mystery Jets, che è una delle prime date international del New Age. Niente po' di meno che Mystery Jets il 9 ottobre in quelle New Age di Roncade. Quindi da segnare. Mystery Jets britannici, perché io li ho visti in foto, non posso usare la mia solita espressione bei ragazzi, perché ti assicuro che dei lavandini con le gambe, esatto, esatto, giusto per usare i classici eufemismi che sono di casa nel tuo cervello, dei lavandini con le gambe. Loro suonano da un po' di tempo, è uscito il loro ultimo album, si chiama Serotonin, una cosa del genere. Serotonina, detta molto più papale. Sì, registrato anche questo su 679 Recording, che è un indie che insomma vi consigliamo, perché ha una serie di persone che saluta Future Reds, Streets e Plan B. Per esempio, un'associata a Rough Trade che noi apprezziamo un po' di più. Sì, perché piccola parentesi. Poi ritorneremo a parlare di Rough Trade molto probabilmente in una delle nostre serate a etichetta. Esatto, a etichetta. Quelle che abbiamo in fronte noi, che ci danno per scaduti da un bel pezzo come gli yogurt, non quelle etichette, ma le etichette discografiche come per esempio Rough Trade. O 4AD, ci soffermeremo magari su queste, giusto per cominciare. O Wichita, o Saddle Creek, ce ne per, sono. Perché elencarne a caso? Caro Marco, ne vuoi suggerire qualcuna tu? Che non sia la tua, se ne hai una. No, non ne ho una. K7. Ma perché no? Zappa lì e porta a casa. K7. Se ne verranno in mente altre. Esattamente, però... Allora, abbiamo che questi Mystery Jets a breve verranno a suonare in quel del New Age. A breve quando, Lele? Il 9 ottobre, come si diceva, partono una serie di serate internazionali. I primi sono i Mystery Jets, seguiranno Melissa Aufdermaur, mi ricordo i Black Rebel Motorcycle Club. Fino a novembre... La Melissa mi pare che mi arrivi con il freddo mentre noi stiamo a battere i denti. Esatto. Lei arriva, ma lei più o meno... è già sopra un muro. Primi dicembre, dovrebbe essere metà dicembre. Sì. E fine novembre c'è anche Peter Hook. E tra l'altro un tributo, e qui poi potrebbe scattare una domanda, ai Joy Division, anche lì, da New Age. Uno dei fondatori di Joy Division, quindi insomma super concerto sicuramente. Quando tu ti sei già occupato di questa cosa. Infatti, e qui il finale circolare di cui adesso ci parli. Che cosa è successo a Revolver recentemente? Sì, Revolver Club di Sandona di Piave, sì. Quindi ci spostiamo di qualche chilometro e abbiamo avuto, io insomma... qualche amico fidato, diciamo, che lavora anche molto nella New Wave e derivati, abbiamo deciso di fare una celebrazione quantomeno singolare, almeno in Italia. Diciamo che, se non ricordo male, ne è stata fatta solo un'altra a Reggio Emilia con ospiti vari, tra cui sono stati Julius Erkat, adesso non ricordo bene, comunque non è stato fatto granché. Quindi abbiamo questa palma d'onore di essere stati tra i pochi a ricordarci questa ricorrenza il 15 maggio, quindi in prossimità della morte di Ian Curtis, che è il trentennale della morte, cadeva il 18 maggio. Quindi abbiamo fatto questa serata ben riuscita, abbiamo fatto quasi 500 presenze, quindi... E chi ha suonato in quell'occasione? Ha suonato la tribute band, diciamo, ufficiale, comunque riconosciuta tra il top del top al mondo, che sono i Transmission, dalla nota canzone guarda che caso. Tutti conosciamo, guarda caso. E anche dal programma di Radio San Donato. Di RSD. Sì. E gettiamo un ponte e salutiamo Joe. Sì. Esatto. Ok, però diciamo che magari hanno preso ma il nome. Ma anche meno, ma... direi tu. Ok. Ciao Giovanni. Non offenderti. No, assolutamente. Giovanni non si offenderà. Sì, hanno suonato loro, comunque hanno fatto veramente un gran concerto. Dopo abbiamo anche chiamato DJ abbastanza datati del genere, quindi gente che 30 anni che mette su New Wave. La serata è andata veramente bene. Invece ai Mystery Jets chiedi che cosa sia la New Wave, loro non te lo sanno assolutamente dire. Penso no, perché no. Però... assolutamente l'orientamento è più legato a un certo tipo di indie, qualche riminiscenza funky, se posso dire. Assolutamente sì, e scusatemi se vi taglio, ma il timer mi fa quasi 40 minuti ed è tempo di andare. Prego. La Mystery vuoi presentare Jets. Tu? Sì, come stavo dicendo, Mystery Jets, questo è il nuovo singolo, Flash, Angry, Smile. Flash and Angry Smile dei Mystery Jets in concerto al 9 ottobre a New Age. Favotto, già che mi guardi con quella faccia, ti giro pure la parola. Ti guardo perché comunque sono un po' ammaliato. Immaginavo, non so perché. Però eri prossimo a usare quella parola. Ammagliato. Cioè uno con la maglia. Nel senso che ho una maglia. E che ami. Esatto, che, sì. Noi ci vestiamo a strati anche se l'autunno è appena cominciato. La non importa. Cipolla. A questo punto, l'autunno è appena cominciato. Si è parlato di un avvenimento del San Donatese che popola la nostra estate, che è il Rock and Doc, che ora si è trasferito a novembre, quindi neanche più quello. Vogliamo settorializzarci ancora di più, così è San Donatese nell'anima. Così Padova se ne strafrega ancora di più, sì. E il Veneto tutto a seguito. Certamente. Sì. No, anzi, noi in realtà invitiamo i nostri ascoltatori di Padova a venirci a trovare in quella che secondo me è una delle cose belle, tra virgolette, puoi anche che usare... San Donà ha da offrire. Puoi anche usare il singolare. La cosa bella che San Donà ha da offrire, molto probabilmente a parte un edificio vicino all'ex cinema, è sì, quello lì. Metallico. Stai parlando delle scatolette di tonno? Esattamente. Che Sgarbi ha umiliato? Sì, esatto. Capre! Noi fanno schifo. Saliamo agli onori della cronaca grazie a Sgarbi e a un nostro palazzo, ma a parte ciò. Studiate architettura. C'è una fiera che parte dopodomani. Dopodomani siete tutti invitati alla fiera di San Donà. E tra gli organizzatori chi ma chi non vuoi mettere chi non chi vuoi mettere, cioè dopo poi non si dica che noi non studiamo le tempistiche. Sì, dopo ci danno dei cialtroni. No, allora meritatamente sì, dei cialtroni, grazie. Allora Alvise ha introdotto questa ridente fiera di una ridente cittadina quale sono Na. Vuoi vedere che piove? Bene, puoi continuare. Se tutto va bene siamo rovinati. E questa ridente cittadina offre una fiera da molti molti anni. Negli ultimi anni si è rinnovata e ha deciso di introdurre l'aspetto musicale, quindi facendo una fiera dedicata alla musica. Il padiglione fiere si è ristretto un po' dalle, diciamo, dalle solite proposte per lasciare spazio alla musica, quindi per una volta qualcun altro si fa in parte per accogliere la musica, non viceversa. Quest'anno addirittura c'è una importante novità, perché hanno deciso di anticipare di un giorno l'inizio della fiera e proporre un concerto in piazza, una cosa abbastanza particolare, perché suoneranno i Funk Off. Magari nessuno di voi li conosce, o comunque pochi di voi li conoscono, ma è una marching band che partirà dal ponte di San Donà per fare tutta la piazza suonando. Sono 15-17 elementi, adesso vado un po' a memoria sinceramente. Questo avverrà di venerdì sera 9 e mezzo. C'è questa parata di musicisti, fiati, percussioni che come dire inonderà la nostra città di notte e musica di quindi notte. Questa di notte questa città di notte in 17 sì, una squadra del pallone praticamente sì, con tanto di supporter, esatto, di rappresentanza primavera e tutto, esatto. E tutto quello che c'è. Tu facevi parte per caso, perché adesso vabbè, si è esaltata San Donà e esaltiamo San Donà, facevi parte di quella organizzazione che tirava sui concerti fronte Piazza delle Corriere? No, di loro no. Ricordi no, adolescenziali no. E Terza Riol, perché è passata anche buona gente. Cioè, possiamo vantare, sì. Sono passati gli After Hours, La Cruz. Niccolò Fabi. Niccolò Fabi, bravissimo. È Mario Venuti. Insomma, non è che andasse male. Adesso però purtroppo niente. Cioè, se volete veniamo io e Favotto a suonare i campanelli antistanti, esatto, alla stazione delle Corriere. Noi siamo capacissimi di suonare dei citofoni. Comunque tanto di cappello, perché ci sono questi Funk Off, esatto. Ripeto, band infatti. Magari sconosciuta ai più, che però nell'ambiente è abbastanza nome abbastanza rinomato. Hanno suonato dall'Umbria Jazz a importanti manifestazioni di Roma, quindi è uno spettacolo un po' particolare, perché non sono semplicemente una marching band, però insomma cercano di rielaborare anche pezzi molto famosi in chiave un po' motivo in più per venire a fare un salto di qua dopo aver preso a bastonate noi a salutare Marco. Sì, esatto, e a parte ciò potete comunque sempre comprare delle begonie in piazza. e farci sapere se così vi sono piaciuti gli Echo and the Bunnymen, che è il prossimo pezzo che metteremo in playlist questa sera. Beh, sicuramente vi sono piaciuti e vi piacciono dal 1978 più o meno. Sì, anche quando noi non eravamo nati già ci piacevano. Sì, almeno, cioè, uno dei gruppi protagonisti della prima ondata wave, della Liverpool buona, della Liverpool da bere, quella, diciamo, che si è salvata dalle droghe, esatto, della Liverpool da o bere, che l'ha affrontata Liverpool post Beatles, esatto. E bene, Echo and the Bunnymen si sciolgono ad un certo punto della loro carriera, si riformano in tempi recenti e vengono a suonare ad Azzano di Pordenone, esatto, non quest'anno ma quello scorso. Precedente, e non mi ricordo chi fosse con loro, forse dai, il Kaiser Schiff, bravo per una volta. Io ho la scaletta a casa di Kaiser Schiff o gli Echo and the Bunnymen. Echo and the Bunnymen non sono riuscito a prenderla, però l'ho voluto. Scatta la domanda, com'era il concerto? Di quale? Tutti e due i gruppi. Quello che vuoi. Tutti e due bellissimi. Ah, sì, chiaramente Echo and the Bunnymen, cioè, non ha chiaramente informazione ridotta, però hanno dei pezzi che, insomma, per chi ha ascoltato New Wave hanno fatto storia, e insomma, di sentirli dal vivo è sempre un'emozione. E comunque sono stati anche quest'anno all'Upload Festival a Trento. Fine giugno era andata, c'erano due date, una era, c'erano anche gli uncle. E proprio il fine settimana, tanto che l'ha nevicato, è stato un disastro, infatti non sono andato. Dove eravamo io e te a fine giugno? A fine giugno, a metà giugno era più o meno, guarda, là è stesso un disastro, a guardare diluvio, i cacchi sugli alberi molto probabilmente. Probabilmente eravamo con da qualche parte con un cono di segnalazione in testa in un'autostrada, immagino. Penso di sì, senza fare il lavoro che realmente, esatto, quello che ci meritiamo, era un Iveco. Allora, questo brano qui che abbiamo scelto, estratto dall'album Ocean Rain, è del 94 ed è anche contenuto nel film Donnie Darko, se non erro. Sì, qui c'è gente che con pareri discordanti. A Favotto non piace, sempre sì, i soliti. Perché usare... è uno snob. Sì, mi ha lasciato scettico quel film, se devo dire la verità. Una specie di studente di Dams che ha chiuso il primo anno. La classica cosa. Snobba qualsiasi cosa, ha visto più di 8-9 persone. Sì, sono il, cioè, quando supera gli 11 spettatori un film è commerciale. Esatto, sai, sono il classico radical chic da poco. Ma sai qual è la cosa strana? Che io il mio pollo lo conosco, e il fatto che a Donnie Darko piove in testa il motore di un Boeing 737 mentre sta dormendo deve essere già elemento sufficiente per fargli piacere la pellicola. Ma eppure stavolta non è così, e per quello mi coglie impreparato. No, cioè, ci sono delle, secondo me, se posso esprimere un parere, ci sono delle cose assolutamente interessanti, ma il film nella sua totalità mi lascia scettico. No, è vero, dai, alla fine mi assesto sulla tua cosa. Sei sicuro? Sì, dai, sono sicuro, facciamo le cose all'italiano. Ti voglio bene, un compromesso. Tu sali storico sul carro dei vincitori. Sì, esatto, le prende le cose all'italiano. Potevi aspettare la mia opinione e lo schiacciavamo. E vince 2-1 lui. A te è piaciuto moltissimo? No, moltissimo no, non lo ritengo sia una pellicola fondamentale. Film. Beh, no, assolutamente, quello no. Assolutamente no. Però insomma ha tirato fuori un pezzo come Killing Moon. Eh sì, tra l'altro poi c'era anche Under the Milky Way. Esatto. E non mi ricordo. E c'era cos'era una cover di, bravissimo, Gary Jules, Mad World, A Tear for Fears. Bravissimo, esatto. Che tanti credono sia sua, ma non sia vero, diciamo niente al mondo che non è vero. E quindi la mettiamo su noi una volta o l'altra, quella cover lì, in chiusura di puntata. È una canzone estremamente lenta, usata anche come spot di un videogioco. Pensavo come forma di eutanasia in musica. Esatto. Ora sì, possiamo andare? Sì. Le abbiamo dette tutte? Certamente. Echo and the Bunnymen dall'album Ocean Rain. Questa la è Luna Assassina. The Killing Moon. Against a wave hill, through the thick and thin. 1984 dall'album Ocean Rain, questa era The Killing Moon degli Echo and the Bunnymen, Music for Youth, Radio Sandona 102-200, Radio Sherwood 97-800. Siamo arrivati in chiusura di puntata e tutti facciamo un bel respiro. Siamo quasi terminali. Esatto, siamo quasi terminati. Marco, sei contento di essere arrivato alla fine? Ma penso di essermi realizzato. Parecchio tragicomica come cosa, no? Questa puntata. Sì, beh, ma si allinea. Sì, non mi aspettavo diversamente. La mia vita, io. Si allinea. Sì. Volevo ridurre un po' la tragicità, perché se questa cosa si allinea alla mia vita, questa roba è gravissimo. Comunque, grazie per i tuoi mancati contributi di quest'ora sì, di trasmissione. Ma sono contento perché sono venuto via assolutamente impreparato e hai scoperto e che c'è tranquillizzato gente di te, perché avete detto: ah, tu non hai preparato niente, ma nemmeno noi. Sì, cioè, sì, quindi, ma come sempre, il mal comune mezzo gaudio. Quello che sentite è frutto di tutto il nostro essere ciarlatani per un'ora di continuo, senza mai fermare la registrazione, solo perché gli strumenti non ce lo permettono, altrimenti lo faremo molto volentieri. Molto volentieri, molto volentieri. No, in realtà bisogna, per due secondi di serietà che questo programma ci permette, bisogna dare spazio a quella che è l'attività di promozione che il nostro ragazzo qui presente ci realizza. Dove troviamo dei contatti, se vogliamo? Allora, in c'è internet? Questo nuovo brand, come direbbero gli studenti di marketing, che appunto Normal Eventi. Potete andare su normalpromotion.wordpress.com, Sì, sì. Ok, .com sempre. E anch'io mi sono accodato a WordPress. Fatto bene. Appunto, c'è questo piccolo riferimento per quanto riguarda qualche evento che organizziamo io in collaborazione con altri loschi figuri. Il primo che organizziamo così in via ufficiale sono appunto il 6 novembre, quindi segnatelo anche. Il mese più divertente dell'anno. Sì, beh, novembre è riconosciuto come un mese stupendo. A novembre cantava qualcuno, non mi ricordo chi. Lo diciamo dopo perché sennò lo diciamo dopo. Comunque il 6 novembre siete occupati. Siamo occupati, quindi siete tutti invitati, ok, al Revolver Club di San Donato di Piave. Sarà la presentazione del disco come prima data dei niente po' di meno che Love in Elevator, perché non li conoscesse, nota band veneziana, mestrina, padovana, insomma ha bazzicato parecchio comunque in tutta Italia, ha aperto concerti piuttosto importanti, Madonna, per dire un nome su tutti, e con supporter locali quali Mr. Coma e i giovanissimi Nova Lisi. Mr. Coma sono attesi, Nova Lisi insomma sono attesi d'adozione. Tra l'altro Love in Elevator, io mi sono sempre chiesto, il riferimento è la canzone degli Aerosmith? Beh, penso proprio di sì. E il significato della canzone degli Aerosmith penso più che altro. Dopo saranno penso intervistati da Music for Youth, e sì, lo chiederete direttamente a loro. Esatto. Se vogliono, se si degnano. Tra l'altro meglio non anticipare nulla, altrimenti intervisteremo Giusy Ferreri, che è quella di a novembre, visto che dovevamo dire. L'alternativa è registrare l'ascensore che abbiamo qui per salire, altrimenti era farci all'amore. Una citazione degli Stars che a te Favotto piacciono, sì. Ma penso non sia quella citazione lì. Basta, chiusa parentesi, volevo solo prenderti nel mezzo. Perché ti prendo nel mezzo? Perché tempo anche di... Univeco e uno Scania lo fanno spesso. Due track of the year di 97 e 2004. Bravissimo, vedo che studi, un ragazzo studiato. Ti prendo nel mezzo come si prendono nel mezzo Isabel Campbell e Mark Lanegan. Beh, certamente Isabel Campbell e Mark Lanegan, ormai un duo collaudato, una doppietta, sì, ormai al terzo album, un duo collaudato. Lei tra l'altro in qualche modo mi è vicina, tua parente, mi è quasi compaesana in quanto lei è di Glasgow. Esatto. E, lei nasce come violoncellista e a un certo punto della sua vita incontra Mark. Siccome so che ti piace lei, sì. Ti ho prenotato un loculo di fianco. Oh, che bello. Quando schiatti, per cui stai pure tranquillo. Bello, i tuoi desideri si sono avverati, almeno starò a braccetto. Ho chiuso le pratiche io, vai tranquillo, veramente. Io invece mi faccio sempre dire di fianco a Mark Lanegan, ex cantante di chi, caro Marco? Gli Screaming Trees, come diceva la nota canzone. Il nostro terzo conduttore. E poi membro dei Queen of the Stone Age. Beh, per un periodo. Sì, ha militato nei Queen, anche se Queen of Stone Age appunto è un progetto sempre molto aperto, esatto. Quindi non si è mai capito chi faceva cosa. Comunque dopo delle Desert Session sempre di Josh Homme, no, certo, abbiamo parlato tantissimo nella puntata, aspetta che te lo dico, con i Seven Sisters Hot Peluches. Esatto. Addirittura sì. Martino Basso a tal proposito era preparatissimo, era molto preparato, infatti complimenti Martino ancora oggi. Saluti anche a lei, mentre salutiamo anche Marco. Ringraziamo per grazie a voi la tua ora di compagnia. No, a voi no, agli ascoltatori a noi assolutamente niente. Noi siamo più, guarda, rinviamo il ringraziamento, pallonata sugli spalti, noi siamo delle corde vocali liberamente tratte. Bene, sì, andiamo è tempo a salutare. Cosa è dice? Tempo. Loro sono al terzo album e sono Isobel Campbell e Mark Lanegan. Questa è Music for Youth, la canzone di saluto, possiamo dire così. È Saturday is Gone, preso dal loro primo album che si chiama Ballad of Broken Seas. Music for Youth vi saluta e vi ricorda che siamo sulle frequenze di Sherwood ogni martedì alle 17.30, il mercoledì su Radio San Donà alle 22, in replica il lunedì successivo alle 21. Favotto, è stato un piacere. Altrettanto Terzariol, altrettanto ascoltatori. Ci sentiamo alla prossima settimana. Ciao. Salve a tutti.